il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Al quadrifoglio abbiamo oggi il piacere di incontrare Giordano Emo Capodilista, titolare dell'azienda agricola Conte Emo Capodilista, che ha sede alla Montechia di Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, e presidente di Confagricoltura Padova, di recente nominato componente della Giunta Nazionale della Confederazione Italiana Agricoltori, dove ha assunto la delega all'internazionalizzazione e al Made in Italy. Proprio queste deleghe ci hanno incuriosito, perché sentiamo spesso parlare di agricoltura italiana in termini di importazione di prodotti dall'estero, che si tratti del frumento per il pane o del latte per i formaggi, e molto poco di quello che invece viene venduto all'estero, a parte quando forse si parla di Prosecco e di altri vini celebri che ormai sappiamo essere venduti più oltre frontiera che in Italia. Partiamo subito parlando di export, non solo vino quindi, ma anche altri prodotti. Che cosa l'agricoltura italiana può portare sul campo internazionale? Sappiamo della dieta mediterranea e così via, ma poi nel concreto quali sono i nostri prodotti, a parte il vino, che vanno all'estero? Beh, il vino ovviamente, però c'è tutto il nostro patrimonio agroalimentare può essere esportato, dall'ortofrutta, voglio dire al vivaismo, per arrivare anche agli insaccati, ai salami, la carne, cioè tutto quanto il nostro patrimonio può essere sicuramente esportato perché è di qualità ed è molto ben controllato. Sappiamo però che ci sono dei problemi anche su prodotti molto importanti, come per esempio quello del latte, problemi non solo di prezzo ma anche di grandi quantità di latte che vengono dall'estero, eppure noi consumiamo latte e siamo tra i primi al mondo per i formaggi. Come si spiega questa situazione? Perché comunque innanzitutto negli altri paesi europei il prezzo del latte è più competitivo per motivi geografici e ambientali, voglio dire, perché in Francia, in Belgio comunque costa meno produrre il latte che in Italia. E in Italia il latte è buono, il latte è controllato, c'è un sistema di controllo di primissimo ordine, però non è sufficiente comunque per il nostro fabbisogno. E quindi il nostro latte lo consumiamo, però anche se importiamo latte e non latte in polvere possibilmente dall'estero per fare i nostri formaggi, è necessario soprattutto per i prodotti che non sono comunque IGP, DOP, quindi comunque è una necessità. Questo dei prodotti a marchio, quindi dei prodotti tipici, prodotti tutelati, è una viene sempre detta un'opportunità, però a volte ci si chiede se lo è veramente, nel senso che abbiamo centinaia di prodotti tutelati in Italia, ma alcuni sono veramente di nicchia e quindi non si sa quale sia la ricaduta reale per il territorio e poi quindi addirittura per l'export, nel senso che ci sono dei prodotti conosciuti solo qui e di cui ci sarebbe anche una quantità sufficiente a malapena, cioè una quantità sufficiente malapena per i bisogni del territorio, insomma di chi li conosce, quindi è veramente una risorsa questo? Secondo me i prodotti di nicchia DOP di OCG sono importantissimi e comunque sono l'eccellenza della qualità italiana, però rappresentano in percentuale e non certamente il totale dell'export, quindi bisogna pensare che c'è anche il resto. Noi per esempio nella Confagricoltura abbiamo tanti soci che fanno prodotti di nicchia, però non si vive con la cipolla di Tropea o comunque con i prodotti DOP, c'è tutto il resto che deve essere valorizzato e comunque anche esportato. Bisogna stare attenti a volte poi quando si offrono dei prodotti all'estero di avere la quantità necessaria per poter affrontare i mercati, perché questo a volte purtroppo non succede. Parliamo molto di globalizzazione, ma nello stesso tempo cerchiamo i prodotti a chilometro zero. Questo a volte può diventare un po' un controsenso. Come lo si risolve? Cioè, cosa ne pensate voi? Ma lo slogan del chilometro zero, per carità, io credo che il fatto che ci sia una regionalizzazione dei consumi e che comunque le persone vogliano mangiare e bere i prodotti del territorio che li circonda è sintomatico. per mille motivi, anche perché spesso il trasporto, conoscenza dei produttori, anche abitudini alimentari e cultura alimentare, quindi niente in contrario, però ecco, col chilometro zero non riusciamo certamente a vendere tutta la produzione che facciamo e per fare un esempio banale, non credo che noi dei Colli Lugani ci potremmo bere tutto il nostro vino con i padovani, magari fosse così, invece cerchiamo di esportarli in giro per il mondo e di portare anche un po' del nostro territorio a conoscenza degli altri, e questo è oltretutto è anche un mezzo di comunicazione enorme per il turismo. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Perché mi piaci in ogni modo, da ogni lato ho prospettiva tu. Perché se manchi stringe un nodo e il respiro non mi ritorna più. Perché non chiedi mai perdono, ma se mi abbracci non ti stancheresti mai. E poi sai fare morire un uomo con l'innocenza del pudore che non hai. Sei solo tu nei giorni miei, sempre più dentro me. Sei solo tu e dimmi che sono quest'ora anch'io per te. Perché sei bella che mi fai male, ma non ti importa o forse neanche tu lo sai. La sera vuoi fare l'amore ogni volta come fosse l'ultima. Sei solo tu nei gesti miei, sempre più oramai. Sei solo tu dentro me, tutto il resto invisibile. Torniamo in linea con il quadrifoglio, oggi stiamo parlando di agricoltura e di esportazione e lo stiamo facendo con Giordano Emo, capodilista dell'omonima cantina di Selvazzano Dentro, presidente di Confagricoltura Padova e componente della giunta della Confederazione Italiana Agricoltori con delega all'internazionalizzazione e al Made in Italy. Sempre in tema di internazionalizzazione, sentiamo spesso parlare in TV e non solo di questi grandi trattati internazionali, c'è il TTIP, ma anche in particolar modo quello con il Canada, trattati che si vengono sempre guardati con molte riserve perché sembra sempre che vadano contro un po' quella che è la nostra tradizione e la qualità soprattutto dei nostri prodotti. Qual è la situazione e cosa ne pensa? Beh, il mondo è globalizzato ormai. Io credo che noi abbiamo innanzitutto una produzione eccellente e super controllata, e questo anche se per gli agricoltori spesso è un aggravio burocratico enorme e le cose potrebbero essere sicuramente semplificate, perché ci sono tanti enti che ci controllano quando invece si potrebbero le cose razionalizzare. Guardo con grande interesse verso il testo unico appunto sul vino, che va a normare determinate cose, e speriamo che i regolamenti di attuazione vengano emanati al più presto possibile. E però ecco, gli accordi internazionali sono importanti, e bisogna chiaramente avere anche la capacità poi di dare però della quantità e avere un sistema di competitività paese che ci porti a poter essere competitivi, perché il Made in Italy è una bella cosa ed è una bella cosa da dire, poi però bisogna che ci siano le quantità e ci sia un sistema paese poi che ci permetta di essere competitivi. Quindi benissimo il Made in Italy, benissimo i trattati, ma per me la cosa determinante è la competitività delle aziende e delle aziende agricole che esistono, che insistono, che producono e che siano messe in condizione di poter esportare i prodotti. Per quanto riguarda il TTIP, come lei ben sa, è stato bloccato e quindi non sta andando avanti, e là c'era un problema anche con le carni americane che hanno gli ormoni, per cui comunque noi non li recepiamo in Italia e in Europa. Per quanto riguarda gli accordi con il Canada, stanno andando avanti e sono importanti, ma è chiaro che in un mondo globalizzato comunque degli accordi devono esserci, devono esistere. Noi dobbiamo essere competitivi, ci vuole uno Stato che ci consenta di esserlo, bisogna avere le produzioni ben promosse, che sono certificate, e anche quelle non certificate, che siano in grado di competere sul mondo nell'internazionalizzazione dei prodotti. Poi ci sono anche dei momenti in cui si fanno delle riflessioni, perché a volte arrivano anche dei prodotti che magari non sono controllati e comunque non hanno le stesse cinture, diciamo, di sicurezza che abbiamo noi, e magari vengono da mondi che dove anche così il sistema produttivo non è proprio allineato con gli standard europei, che sono anche di salvaguardia non solamente dei consumatori ma anche del personale, persone che lavorano nelle nostre aziende, e quindi a volte ci si può trovare in difficoltà con sistemi produttivi di altri paesi che invece utilizzano delle norme che da noi non potrebbero esistere, insomma, e questo ci pone in difficoltà. Assolutamente. Le faccio un'ultima domanda, visto che lei ha anche l'ottica veneta. Quest'inverno si è parlato molto del problema della siccità, ci sono state delle piogge in questo ultimo scorcio di primavera. È risolta la situazione oppure l'agricoltura è ancora a rischio? Avete preoccupazioni? No, siamo ancora preoccupati, in quanto comunque la portata è stata limitata ancora dall'EB, che è il consorzio di secondo grado, no? Che porta gran parte dell'acqua verso l'Adige. L'Adige, non so se lei ha visto, ma era quasi secco fino a poco tempo fa, poi ci sono state le ultime piogge che l'hanno rimpinguato, però diciamo i bacini che sono a monte, e quindi sui monti, ancora pieni, non so, e quindi penso che se l'estate dovesse procedere con grandi caldi e siccità, per gli agricoltori potrà essere una situazione molto problematica, perché comunque dell'acqua ne abbiamo assolutamente bisogno, ed è paradossale che la portata adesso venga data minima, perché ci si debba difendere da inquinamenti non certo portati dall'agricoltura e non per salvaguardare il sistema produttivo agricolo. Grazie. Abbiamo tempo ancora per qualche notizia. Il miele al coriandolo prodotto dall'apicoltura di Renato Piccolo a Loreggia è salito alla ribalta internazionale fra le eccellenze del Made in Italy. Il miele padovano ha conquistato infatti il podio dei Sophie Awards 2017, un prestigioso riconoscimento assegnato ormai da 45 anni dalla Specialty Food Association degli Stati Uniti. Per la categoria Honey, il miele al coriandolo esportato da alcuni mesi anche negli Stati Uniti, appunto, ha scalzato centinaia di concorrenti, conquistando il terzo posto. La Specialty Food Association è una potente organizzazione del commercio fondata negli Stati Uniti nel 1952, che rappresenta oltre 3.400 aziende tra produttori, artigiani, importatori, distributori e altri soggetti coinvolti nella filiera agroalimentare. Dal 1972 promuove il Sophie Awards, che premia i migliori prodotti alimentari presenti sul mercato statunitense. E passiamo ad un'altra notizia. Dall'1 al 4 giugno 2017 approda a Padova e in provincia Itaca, proprio con l'accento sulla A, il Festival del Turismo Responsabile. Ricco è il cartellone di eventi aperti a tutti: itinerari a piedi, in barca e in bicicletta, workshop, degustazioni bio e a chilometri zero, presentazioni di libri, mostre, concerti e tanti altri eventi per scoprire e valorizzare le eccellenze culturali, artistiche, enogastronomiche e paesaggistiche del territorio. La manifestazione si svolge in 10 città italiane, è iniziata a Bologna a metà maggio e poi è passata a Ferrara. Dopo la tappa padovana toccherà molte località emiliane, il Trentino, sarà quindi a Rovigo dal 13 al 15 ottobre e si concluderà nel Monferrato il 22 di ottobre. Si propone come una piattaforma di innovazione sociale, creando sinergie tra tutti coloro che vedono nel turismo responsabile un'opportunità per rigenerare il tessuto economico e sociale della loro area. Per informazioni potete consultare il sito www.festivalitaca.net. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima settimana. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.